L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata in cui nella prima parte ci prepareremo, per così dire, alla COP23 delle Nazioni Unite, ovvero la conferenza tra le parti numero 23, che si svolgerà a Bonn dal 6 al 17 novembre. Lì si tornerà a discutere di come implementare gli accordi di Parigi del 2015 per frenare il cambiamento climatico. Ebbene, in vista di questo appuntamento si è tenuto in settimana a Roma il summit internazionale Water and Climate, acqua e clima, dedicato ai grandi fiumi del mondo. Nella seconda parte invece ci occuperemo dell'inaugurazione di un impianto che ricicla completamente pannolini e pannoloni, trasformandoli in materie prime seconde. Ma iniziamo da Roma con il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. L'Italia ha voluto organizzare questo summit per porre al centro del dibattito internazionale sul surriscaldamento globale il ruolo dei grandi fiumi e dei grandi laghi del pianeta, attorno ai quali sono cresciute le grandi civiltà e che devono condurre da protagonisti la grande sfida climatica. I grandi fiumi del pianeta sono le principali riserve di acqua dolce di cui dispone l'umanità. Sono una risorsa fondamentale per la vita delle comunità che va tutelata, ma possono anche trasformarsi in un pericolo se colpiti dagli eventi meteo estremi che stanno diventando sempre più frequenti e violenti. E così questo è il tema. La scarsità d'acqua è tuttora una delle grandi questioni mondiali, ha detto il premier Gentiloni, intervenendo sempre nella giornata di inaugurazione. Ci sono 800 milioni di persone che non hanno accesso all'acqua potabile, ma non solo. Ci sono problemi che sono nati negli ultimi decenni, ovvero quelli derivanti dall'impatto dei cambiamenti climatici che causano guerre e imponenti fenomeni migratori. Noi ne parliamo spesso per i fenomeni migratori che ci toccano direttamente, per i flussi migratori che arrivano in Europa, in Italia, nel nostro continente, ma non dimentichiamo mai che queste grandi dinamiche ambientali che riguardano i laghi e i fiumi producono innanzitutto degli enormi flussi migratori interni, ad esempio all'Africa. La vicenda del lago Chad, un lago che alimenta un bacino di 70 milioni di persone, diversi paesi, la cui crisi gravissima negli ultimi decenni ha provocato effetti notevoli, si calcola 2,5 milioni di persone sfollate in quel bacino, regioni fragilizzate. Ci sono perfino delle relazioni evidenti tra la crisi idrica del lago Chad e l'emergere di minacce terroristiche in alcune di quelle regioni, e in particolare la minaccia terroristica di Boko Haram. A Roma c'era anche il commissario europeo all'ambiente, il maltese Carmen Uvella. On the global stage, there is widespread recognition of the need. Il nostro clima oggi è minacciato, ha ricordato. Il riscaldamento globale sta aumentando le temperature di fiumi e di laghi, con un impatto sugli ecosistemi e la qualità dell'acqua. L'accordo di Parigi, ha detto, ci ricorda della necessità di prepararci ad adattarci. Will be essential to ensuring that the sustainable... Ha detto tante e utili parole Walter Mazzitti, coordinatore del summit, nella sua prolusione. Ho scelto questo passaggio non tecnico ma evocativo per concludere questa piccola escursione sui discorsi di inaugurazione. Nel XVII secolo un papa, Innocenzo X, dette incarico ad uno forse dei più grandi scultori, artisti del mondo, Bernini, di realizzare una fontana al centro di una delle piazze più belle di Roma, Piazza Navona. Perché? Perché voleva rappresentare in questa piazza i quattro continenti che in quel momento erano conosciuti dal mondo. E cosa ha fatto Bernini? Avrebbe potuto rappresentarli in un qualunque modo. Li ha rappresentati attraverso i fiumi. E quindi i quattro continenti allora conosciuti sono stati rappresentati, e cioè l'Europa, l'Africa, l'Asia e l'America, dal Danubio, il Nilo, il Gange e il Rio della Plata. E sono qui. i fiumi a rappresentare i continenti. Stefano Pecora, il nostro ospite, è vicepresidente della Commissione Idrologia dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. Il suo panel, il suo gruppo di discussione, ha affrontato la questione del contributo che l'idrologia può dare alla gestione delle risorse in tempi di cambiamenti climatici, che portano troppa o troppo poca acqua. C'è un tema di base che deve essere sostenuto da tutti gli stati, quello di conoscere per poter gestire. È impossibile poter gestire una risorsa se non abbiamo dei dati. Quindi il primo contributo che la Commissione Idrologia ha voluto dare a questo importante summit è quello del monitoraggio idrologico. È un'attività che tutti quanti mantengono, compreso anche l'Italia, è sicuramente un'attività tecnica che deve essere sostenuta, mantenuta, per conoscere quanta acqua scorre nei fiumi, quanta acqua ci sta nella parte sotterranea, quanta acqua precipita. E quindi tutti i partecipanti, diciamo, scusi se la interrompo, il panel hanno dato un contributo su questo aspetto, quindi sul monitoraggio nei loro territori? Durante il panel c'è stato questo contributo da alcuni bacini, nel senso non tutti potevano parlare ovviamente, per cui ci sono stati alcuni rappresentanti di alcuni bacini idrografici che hanno raccontato come effettuano il monitoraggio e come queste informazioni possono essere utilizzate per la gestione delle risorse idriche, come potersi difendere dalle piene o anche dalle che azioni mettere in campo durante gli eventi di magra. Però un tema, un aspetto fondamentale che è molto tecnico, che ho voluto introdurre durante questo summit, è quello della messa a disposizione dei dati. Possiamo effettuare monitoraggio, quindi osservare, però subito dopo bisogna tenere in considerazione come mettere a disposizione queste osservazioni per chi poi deve decidere, che è un tema affatto banale. Poi oggi viene particolarmente ripreso dai concetti di open data, cioè come rendere liberi e accessibili i dati. Questo tema l'abbiamo sviluppato insieme a una larga comunità internazionale, abbiamo individuato delle tecniche standard e non standard. Quando dico standard significa che individuiamo delle modalità che poi approviamo come WMO per descrivere le osservazioni in maniera completa, in modo tale che il dato diventi informazione, poi si trasformi in conoscenza e quindi poi in sapienza, poi l'ultimo passaggio del ciclo del dato, in modo tale che in maniera utile si può gestire un tema, quale esempio, lo ripeto, quello della gestione delle risorse idriche. Le tecniche che abbiamo individuato sono particolarmente complesse, nel senso che hanno richiesto uno sforzo importante di sviluppo, soprattutto nel campo della scienza dei dati applicati all'idrologia, ma contemporaneamente li abbiamo resi fruibili a tutti, e questo ci ha consentito di fare applicazioni in tutto il mondo, quindi a supporto di tutti gli stati, di tutti i servizi idrologici nazionali, per poter rendere ricercabili i propri dati, ma soprattutto accessibili. Quindi questo è un lavoro buono stato d'avanzamento? Dunque, distinguerei la parte formale dalla parte più operativa. Allora, da un punto di vista operativo è stato molto avanzato, nel senso che c'è un sistema, seppur ancora in sviluppo, che però è funzionante e sostiene operativamente gli stati membri. Da un punto di vista formale c'è una proposta che verrà sottomessa a dicembre di questo anno, in modo tale che verrà poi approvata dall'Executive Council del WMO a giugno del prossimo anno. Quindi sono due momenti diversi che mi sento però di dire che già avere operativamente un sistema funzionante significa che siamo al passo con i tempi, sosteniamo chi deve oggi dover rispondere e decidere sui temi di piene, di magre che affliggono i bacini idrografici. Questo mi sembra un tema fondamentale, perché poi dopo, appunto, i governi che devono poi mettere in pratica delle politiche devono avere accesso ai dati, utilizzarli e farli entrare, no, nella loro routine, diciamo. Esattamente, corretto, che riguardano tutti gli stati, Italia compresa. Il summit di questo di questi giorni riguarda i grandi bacini, i grandi fiumi. Il nostro bacino più grande è quello del Po, che ha 70.000 km quadri, che è piccolo a confronto, però per complessità dei processi idrologici che avvengono è tanto quanto gli altri, per cui è afflitto da medesimi problemi in termini di impatti dei cambiamenti climatici, e insieme agli altri discutiamo come trovare una soluzione e mettiamo soprattutto in pratica le soluzioni. E direi quanto, insomma, se giudichiamo negli ultimi anni, è urgente fare questa operazione. Assolutamente, questi sono degli aspetti che occorre prendere in considerazione in tutti i piani di tutela delle risorse idriche, che poi è l'attività che viene svolta dalle autorità di distretto, che tengono conto di quelle che sono le attuali condizioni, ma contemporaneamente tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici proprio mediante quelle catene di tipo climatologico, idrologico, idraulico che ho appena raccontato. Ci fermiamo qui per ora, piccola pausa, continuiamo tra poco cambiando argomento. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio da Laura Bettini per questa seconda parte dell'altro pianeta. Nella prima abbiamo parlato di acqua, ora cambiamo argomento. Andiamo in provincia di Treviso, dove è stato inaugurato in settimana il primo impianto di smaltimento su scala industriale in Europa e nel mondo, in grado di trasformare il 100% dei pannolini usati in materie prime seconde. Secondo le stime, se il sistema di riciclo venisse applicato a tutto il paese, a tutta l'Italia, elimineremmo il 2,5% dei rifiuti solidi urbani, ovvero 900.000 tonnellate di prodotti assorbenti per la persona che oggi vengono smaltiti in discarica per il 65% o tramite incenerimento per il 35%. La tecnologia per il riciclo è stata completamente sviluppata in Italia da Fater, che è un'azienda produttrice di prodotti assorbenti per la persona, ed è una joint venture tra Procter & Gamble ed il gruppo Angelini. La sperimentazione è stata avviata nel 2015 nella sede trevigiana di Contarina S.p.A. Contarina è una società in-house providing a completa partecipazione pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti in 50 comuni della provincia di Treviso. La sperimentazione, avviata appunto come dicevamo nel 2015, partì anche grazie a un finanziamento europeo. E così vi ho fatto il quadro che servirà a capire e contestualizzare gli interventi dei nostri ospiti. Cominciamo da Procter & Gamble con Roberto Marinucci, che è il vicepresidente del settore Global Baby Care ed è membro anche del comitato esecutivo di Fater. Questo in realtà è il primo impianto di riciclo pannoline e pannoloni che abbiamo qui all'Ovadino di Spresiano in provincia di Treviso. Tutto parte dalla raccolta differenziata di questi prodotti, i quali vengono poi processati attraverso la tecnologia che Fader ha sviluppato, e quindi una tecnologia che permette a questi pannolini e pannoloni di essere puliti, sterilizzati, essiccati e quindi essere poi separati nei loro materiali componenti, producendo quindi materie prima seconda nella forma di cellulosa, di plastica e di polimero superassorbente. Il tutto fatto con il nostro partner Contarina, che è l'operatore che si occupa quindi di tutto il processo di trasformazione e di tutta la logistica di questi rifiuti. Fater, che è una joint venture di P&G e Angelini in Italia, si è posto questo tema nel 2008 e ha creato letteralmente una business unit separata che fosse in grado di inventare, tra virgolette, una tecnologia che fosse in grado di fare questo processo con i pannolini post consumo. Questo è stato chiaramente un processo piuttosto complesso, dove c'è stata prima uno sviluppo sperimentale di una macchina molto piccola, che è passata poi ad un prototipo che è stato installato qui in Veneto da Contarina nel 2015, e adesso siamo alla seconda generazione, che poi è quella che poi porterà all'industrializzazione di queste macchine che sono state inaugurata oggi. Dunque le chiedo un'ultima cosa che riguarda per l'appunto l'industrializzazione, cioè che tempi possiamo ragionevolmente prevedere? Noi chiaramente siamo adesso nella fase di completare l'intera fase di sperimentazione, che quindi prenderà credo 12 mesi o giù di lì. Io penso che nell'ambito nel 2018 staremo già iniziando la fase di industrializzazione, e questo è ovviamente un progetto che coinvolge l'Italia, perché ovviamente ci sono state tante le richieste da tanti comuni di questa tecnologia, ma anche l'estero. Io per esempio adesso che non sono più in Fatere, sono in Procter & Gamble, e mi occupo fondamentalmente della globalizzazione di questa tecnologia, le posso assicurare che all'estero, in Europa, ma anche fuori d'Europa, c'è un interesse molto forte. Ma è un brevetto vostro? È sviluppato con Fater. È una serie di brevetti Fater, credo che sono più di 100 brevetti che Fater ha e che possiede, e che quindi ci danno una ragionevole protezione a questa idea. E quindi poi via via troverete delle altre contarina in giro per l'Italia e il mondo, sì, per continuare. Sì, sì, ma la cosa interessante è anche che poi tutto l'indotto di questo progetto, incluso anche i fornitori di macchine, questi fornitori adesso sono nel Veneto e creano un'infrastruttura importante, anche una specie di distretto all'interno del territorio che speriamo possa essere di grande aiuto anche nella fase di industrializzazione e di internazionalizzazione addirittura. A questo punto la parola la passiamo a Franco Zanata, che è il presidente di Contarina, che come dicevamo è la società che si occupa della gestione dei rifiuti in questi 50 comuni della provincia di Treviso. È un impianto che è una novità assoluta a livello mondiale e che affronta uno dei temi delicatissimi, quello di trattare i prodotti assorbenti dopo il consumo. Per noi era un rifiuto non riciclabile. Beh, con l'impianto che abbiamo inaugurato oggi, questo rifiuto diventa un rifiuto invece che può essere recuperato, e quindi recuperiamo la plastica, la cellulosa e il materiale assorbente che è contenuto proprio nei pannolini. È un esempio di economia circolare praticata e non solo predicata. Tra l'altro, appunto, producendo materia prima seconda che quindi può essere reintrodotta sul mercato, insomma i vantaggi sono molteplici, direi, da tutti i punti di vista. Noi abbiamo già una raccolta differenziata molto alta, supera l'85%, però nel rifiuto residuo, in quel 15%, un terzo è costituito da pannolini e pannoloni, ed è una cosa che pensavamo in qualche maniera di dover trascinarci come un rifiuto non riciclabile. Beh, la rivoluzione è avvenuta, questo sta a indicare anche l'interesse di queste aziende a soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista economico ma anche ambientale. Non credo sia stato, insomma, difficile avviare questo tipo di raccolta differenziata, poiché voi già avete quei numeri che fanno capire come la cittadinanza è pronta ed risponde bene alla richiesta di differenziare. Quindi... No, ma noi facciamo già in qualche maniera una raccolta a parte dei pannolini e pannoloni perché per agevolare le famiglie che hanno questa necessità e farli pagare meno lo svuotamento. Abbiamo in qualche maniera condotto nel nostro territorio un'attività di formazione e informazione anche alla popolazione importante, perché chiediamo una responsabilità molto alta ai nostri cittadini e un impegno nella raccolta differenziata. Senta, ma hanno anche, diciamo così, dei benefici tangibili, oltre al fatto che ovviamente partecipano alla pulizia dell'ambiente in cui vivono e così via, ma c'è anche un ritorno, non so, C'è un primo ritorno economico, nel senso che nel momento in cui loro producono meno rifiuto non riciclabile, pagano meno. Un cittadino mi dice: guardi, io ho fatto il sindaco, quando hai cominciato la raccolta differenziata ho maledetto tutti, ma è durata 20 giorni. È come quando si va a ballare, all'inizio si fa un po' di fatica ma poi ci si diverte. E a questo punto sentiamo anche Angelo Salsi, che è capo unità Life dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea, perché, come dicevamo, la sperimentazione fu avviata anche grazie a un finanziamento dell'UE. Abbiamo finanziato questo progetto con il piccolo e vecchio programma Chip Eco Innovation, che purtroppo è terminato nel 2013, e che però stiamo seguendo in termini di contenuto con il programma LIFE, quindi non è morto il Chip Eco Innovation, ma la cosa interessante era che quel programma era stato disegnato fin dall'inizio con l'ottica di trovare delle e finanziare delle idee che fossero eco e possibilmente innovanti, innovation, quindi innovanti, ma dall'altra parte che fossero disegnate anche un'ottica alla sostenibilità, in questo caso al business, perché se disegni un progetto che è molto innovante da un punto di vista ecologico ambientale, ma poi non riuscirai mai a realizzarlo perché il business non c'è, alla fine non hai impatto. E questa è effettivamente la dimostrazione, la prova provata, questo progetto che ci avevamo preso. Beh, insomma, avete un certo ormai una consolidata esperienza, direi, nella scelta anche dei progetti, no? Perché sono comunque... Non è così banale, sembra più semplice, però far arrivare a questi programmi delle idee che abbiano quel livello di maturità è tutt'altro che semplice. Ci sono tanti buoni propositi, ma poi magari è difficile tradurli in qualcosa tanti di... Tanti prototipi lasciati nelle cantine, queste cose qui, e siamo un po' stufi di vederli, vogliamo vedere molte più cose come questa. Gente che arrivi proiettandosi, che abbia un sogno e che lo voglia veramente realizzare. Tra l'altro questo sogno si sposa anche con i sogni, diciamo così, dell'Unione Europea, perché insomma chiude il cerchio, no, dell'economia circolare, sì. Riesce ad arrivare lontano, diciamo. Sì, dà sostanza e visibilità a queste strategie che noi disegniamo a Bruxelles insieme agli Stati membri del Parlamento, che però molto spesso i cittadini non sanno esattamente di cosa si tratti. In questo caso la gente può toccare quasi fisicamente con mano di cos'è questa economia circolare. Di quanto, diciamo, avevate economicamente aiutato questo circa progetto? Circa 1,5 milioni. Circa 1,5 milioni. Sì. Ed è proprio tutto per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon ascolto.